Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 19 maggio, il sole in regione sorto alle 5.30 e tramonterà alle 20.39. Giovedì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. Il bosco di fronte al cambiamento climatico e altri pericoli, un corso a Paluzza. Medea in Istria e in Friuli, è il titolo del corsivo di Licio Damiani che vi riproponiamo oggi. Elogio dei lombrichi strategici per la salute del terreno nella rubrica del bio. Quale vino conviene produrre? Una serie di valutazioni per andare con successo in cantina. Il piglio di Sant'Orligo della Valle, un altro grande albero della nostra regione. Il risotto con i fegatini, un piatto che ha una lunga storia e gran successo. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante con un breve contributo di climatologia locale e il proverbio friulano della settimana. Nel cuore del bosco, foreste e veri valori è il titolo di un corso programmato per il prossimo fine settimana al CESFAM di Paluzza. Ad organizzarlo Legambiente e Casa Comune, una PS che ci illustra adesso Mario Di Gallo. Casa Comune è un'associazione appunto a scopo sociale che è stata fondata da Don Luigi Ciotti insieme a Libera ed altre associazioni del genere. E come mai Don Ciotti ha pensato a questo tipo di iniziativa? L'iniziativa è strettamente collegata alla diffusione e alla, come dire, all'approfondimento di quanto c'è scritto nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Si parlerà del bosco di fronte al cambiamento climatico, ma non solo. Il grosso problema del cambiamento climatico è il riscaldamento globale. È un aspetto che ci sta coinvolgendo in questi ultimi decenni, ma in realtà il bosco, quando parliamo di bosco, noi pensiamo soltanto a un insieme di alberi, alle passeggiate, all'aria buona, ma non è solo questo, è molto molto di più. E vogliamo approfondire quanto il bosco sia importante per la nostra vita. Dal bosco ci arriva l'ossigeno, perché le piante verdi producono ossigeno, ossigeno che noi respiriamo, per cui vengono trattati questi servizi che il bosco ci elargisce gratuitamente. Ma parleremo anche di quanto il bosco sia importante per l'economia delle zone montane, in quanto produttore di legname, questo lo sappiamo fin troppo bene. Quali sono i pericoli principali per il bosco oggi? Diciamo che il riscaldamento globale è uno, che si fa vedere in maniera, diciamo, abbastanza subdola. Nel caso del bosco, delle foreste, si parla di disturbi forestali, più correttamente, no? Disturbi che possono essere di origine antropica, cioè gli umani che esagerano nel prelievo, no? Nella deforestazione, oppure possono essere di origine biologica, come attacchi parassitari. Per esempio il bostrico sta fulminando, sta distruggendo tutto l'abete rosso delle nostre montagne. Oppure anche non biologici, cosiddetti abiotici, quindi il vento, per esempio la tempesta Vai, ha fatto una grande distruzione di boschi nei nostri territori che possiamo ancora osservare. A chi è rivolto questo corso e cosa fare per partecipare? È rivolto a un ampio spettro di utenti che vogliono formarsi, vogliono saperne di più. Abbiamo dei docenti che, pur essendo specialisti nella loro materia, sono anche in grado di parlare in maniera molto semplice, molto comprensibile a un vasto pubblico. Quindi come fare a partecipare? Ecco, come fare a partecipare? Bisogna iscriversi a questi 3 giorni utilizzando il sito casacomuneaps.org, nel quale sito ci sono tutti gli estremi, tutti i documenti da redare per potersi iscrivere. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei Campi, Storia, Memorie e Leggende della Campania, edizioni Società Filologica Friulana, oggi vi riproponiamo Medea in Istria e in Friuli, in onda il 4 maggio del 1997. Personaggio di casa dalle nostre parti è Medea, la maga. Da essa prendono nome diverse località. C'è il colle di Medea nell'Isontino, dove secondo una credenza popolare avrebbe dimorato la regina strega, che comandava agli spiriti dei morti di trasformarsi in fiammelle vaganti per i boschi. Il nome di Medea si ritrova nei diplomi di fondazione dei conventi di Sesto a Reghena e di Salto al Torre e nella Dalmazia meridionale. Sulla costa dell'Istria orientale, sotto Abbazia, si apre la Baia di Medea, ombreggiata da olivi e dominata all'imboccatura da due possenti rocce. La leggenda di Medea, che con le sue arti magiche consentì al greco eroe di conquistare il vello d'oro nella Colchide sul Mar Nero, corrispondente all'odierna Georgia, e fuggì poi con lui, è richiamata dalle isole del Quarnero, Cherso, Lussino, Veglia e altre minori, conosciute anche come isole Absirtidi. Ma chi era Medea? Un amico nativo di Veglia, Flavio Fiorentin, cultore di storia, osserva che Medea deriva dalla radice indoeuropea med, la stessa di medico, medicina, allusiva alle arti praticate dalla maga. Perché il suo nome e le sue leggende sono diffuse in queste nostre terre? In Medea si sarebbe personalizzata una guida dei popoli istri provenienti dalle foci del fiume Istro, l'odierno Danubio, maga, medico, condottiero, voce oracolare. Il transito dei Colchi o Istri per la terra che da loro prese il nome Istria e per l'attuale Friuli starebbe a indicare gli itinerari commerciali che qui si incrociavano. Da un lato la via dell'Ambra proveniente dal nord, dall'altra quella dei prodotti provenienti dalle aree mediterranee. Avveniva che i popoli appartenenti alla confederazione che faceva capo a Ilio o Troia, da cui i Liri, trasmigrassero da est a ovest, si pensi al viaggio di Enea, a quello di Antenore o ad Aquileia, che prima della fondazione romana era un centro abitato da gente illirica. Le trasmigrazioni avvenivano solitamente all'inizio della primavera ed erano conosciute dai latini sotto la denominazione rituale di Ver Sacrum. A condurre il transito era il capotribù, il profeta, la sibilla, lo stregone, come si voglia chiamarlo, Medea appunto, che curava anche i mali, colui o colei che a primavera, nelle notti di luna piena, tagliava le erbe magiche con un piccolo falcetto d'oro, da quali oscuri incroci e intrecci della storia nascono le leggende, i miti, i grandi poemi epici. Nel terreno ci sono schiere di lavoratori instancabili che contribuiscono alla sua sanità e fertilità. Sono i lombrichi, protagonisti di questa puntata del Bio con Cristina Micheloni. La conoscenza del suolo, ancora assai scarsa e frammentata, offerti dalla presentazione del libro di Giacomo Sartori, Coltivare la natura. Si ha talvolta la sensazione che il caso non esista e questo è uno di quei frangenti, perché proprio nelle serate di pioggia intensa su Pordenone ed Accollinare abbiamo disquisito di sostanza organica, lombrichi, vita del suolo e tutto quello che fa struttura del suolo, elemento che consente di immagazzinare l'acqua in eccesso, regolarla e farla defluire quando è troppa, ma con lentezza. Parlare di suolo è complesso, sarà per quello che se ne parla troppo poco. Ma almeno un paio di dati, forse vale la pena di riassumerli, citando i lombrichi e la sostanza organica ed il loro ruolo rispetto alla struttura del suolo e alla gestione dell'acqua. I lombrichi sono attori imprescindibili della salute del suolo. Questi instancabili e potenti lavoratori in un anno producono da 40 a 100 tonnellate a ettaro di vermicompost, riciclando fino a 6 tonnellate ettaro anno di sostanza organica. Aumentano la concentrazione dei nutrienti, 5 volte in più di azoto, 7 di fosforo e 11 di potassio rispetto al terreno circostante, sta nei loro turricoli, ovvero quelle belle torrette che altro non sono che le loro deiezioni. Costruiscono stabili strutture glomerulari, il che significa meno lisciviazione, erosione e compattamento proprio nei momenti di maggiore sollecitazione. Creano un vero gruviera di gallerie, 900 metri a metro quadro, considerando solo la profondità di un metro, il che comporta da 4 a 10 volte maggiore capacità di trattenimento dell'acqua. I suoli con una buona popolazione di lombrichi si asciugano fino a 10 volte più velocemente rispetto a un terreno desertificato da chimica e arature. Due parole sulla sostanza organica. Per ogni punto percentuale di aumento di sostanza organica nel suolo si può arrivare a stoccare 340 ettolitri di acqua in più ad ettaro. Essendo la sal della nostra regione 224.766 ettari, L'1% in più di sostanza organica significherebbe poter stoccare qualcosa come 70 milioni di ettolitri in più. Troppo, facciamo la metà. Ma già vuol dire essere in grado di affrontare sia periodi di pioggia intensa che lunghi periodi di siccità, mitigando le conseguenze del cambiamento climatico in tutta la sua imprevedibilità, sia dal punto di vista agricolo che della sicurezza. E perché non li facciamo sti conti? Perché i lombrichi stanno per lo più sottoterra e lavorano silenziosamente, e la sostanza organica preferiamo considerarla un rifiuto da smaltire piuttosto che una risorsa per la fertilità della terra. E infine perché lavorare con il cemento ci consolida nel delirio di poterci emancipare dalla natura, mentre lavorare con la terra ci riporta al ruolo di elemento di un ecosistema complesso di cui capiamo poco e non riusciamo a dirigere, e la cosa indispettisce l'umano. La macerazione del pigiato, quale vino è opportuno produrre? È il titolo che il professor Roberto Zironi ha voluto dare al suo contributo di oggi. Tra i fenomeni che condizionano la macerazione, si nota nelle uve un'attitudine variabile alla dissoluzione dei pigmenti delle bucce. Oltre ad una maturità fenolica, si deve definire pertanto una maturità cellulare, che è legata al livello di degradazione delle pareti cellulari. Esiste inoltre una qualità organolettica dei tannini, in diretta relazione con le condizioni di maturazione. La perfetta maturazione fenolica non corrisponde solamente alla massima concentrazione di tannini, ma anche a tannini non aggressivi o amari. Se le uve sono povere di antociani e di tannini, l'unica soluzione è produrre un vino leggero, ma fresco e fruttato. Al contrario, con uve ricche di composti fenolici e con tannini di qualità, è possibile produrre vini completi che possono essere sottoposti ad un lungo invecchiamento. Varietà comuni o uve con maturazioni incomplete e cattive condizioni sanitarie apportano composti fenolici grossolani che è preferibile evitare. Per tradizione si riservano le macerazioni più lunghe e migliori terroir. Al contrario, con uve alle quali la macerazione porterebbe più difetti che qualità, è consigliabile al limite produrre vini rosati. Attualmente i vini prodotti con macerazione sono strutturati, ma gradevoli da bere già alla fine della fermentazione. In taluni casi i vini vengono venduti quando sono ancora in affinamento, in primeur, nell'anno successivo a quello di produzione. Nel bordolese la vendita di primeur è una realtà consolidata dagli anni 70 del secolo scorso. Oggi sarebbe difficile la promozione di un prodotto non gradevole all'assaggio, ipotizzandone un'eccellenza dopo una lunga evoluzione, ed il fatto che i vini attuali siano gradevoli subito non significa che non abbiano attitudine all'invecchiamento. Nelle migliori vendemmie, i grandi vini, ricchi di tannini di buona qualità, fruttati, ottenuti da lunghe macerazioni, con una struttura tannica armonica, possono sopportare un lungo invecchiamento, anche se sono già gradevoli alla degustazione come vini giovani. Negli ultimi 30 anni il mercato ha richiesto anche vini più complessi e concentrati. Di questi vini è apprezzato il colore intenso, la ricchezza aromatica, il carattere boisé, la struttura potente e la complessità del sapore. Sono definiti vini da concorso o da guide enologiche, ma il loro consumo corrente durante i pasti è però limitato dalla loro ricchezza sensoriale. In questi vini la standardizzazione della qualità è più legata alle tecniche di vinificazione adottate che a fattori naturali, e non si hanno informazioni sulla loro tenuta all'invecchiamento. Soltanto da uve con caratteri compositivi ottimali si possono ottenere vini che associano la ricchezza tannica, da cui l'attitudine all'invecchiamento, la finezza e la complessità dei caratteri organolettici. Nonostante siano vini concentrati, alla degustazione restano armonici ed eleganti. La ricchezza in tannini non favorisce la finezza del vino. L'obiettivo di una buona vinificazione è la ricerca dell'equilibrio. Dopo il Tiglio di Malborghetto è la volta di un altro Tiglio, quello di San Dorligo. Ce ne parla per la rubrica di Grandi Alberi l'ispettore della Forestale Dario Di Gallo. Un'area, quella del Carso e della Val Rosandra, con delle caratteristiche peculiari veramente uniche. È un paesaggio affascinante, molto vario ed articolato, con splendide praterie arborate da maestose querce, profumati boschi di pino nero, lande con arbusti e fiori dai colori vivissimi, profonde e fresche doline. Ovunque la sapiente e armonica presenza millenaria delle piccole comunità umane che hanno saputo integrarsi profondamente in questa terra con i propri coltivi e opere rispettose anche dei materiali naturali. In questo contesto andiamo a visitare oggi il bel Tiglio della chiesetta della Santissima Trinità a Crogole, un borgo adagiato sulla strada che collega San Dorligo a Bagnoli della Rosandra, Dolina. L'albero sembra fondersi con la costruzione e la recinzione in pietra, con un'età che, secondo la tradizione locale, si fa risalire all'epoca della fondazione della chiesa, che data al 1642, come sancito da una pietra posta al suo ingresso. La pianta presenta il fusto e i rami principali cavi e sorprende, in un contesto così minimale e sterile, la bella e fitta chioma rotondeggiante, vigorosa e ricca di ramificazioni secondarie, che ombreggiano dolcemente il cortile. La sua circonferenza supera i 4 metri. I popoli europei hanno sempre amato questo albero dal profumo ineguagliabile, dolce e inebriante, dai semi così eleganti e capaci di volare nel vento, dalle foglie così ariose e leggere, attribuendogli poi numerosi valori simbolici e spirituali, certamente antecedenti all'epoca precristiana, confermati dalla sua collocazione che spesso accompagna i luoghi sacri o della comunità, come vie e piazze pubbliche. Oggi Roberto Zottar si concentra sul risotto con i fegatini, prendendola un po' alla lontana dagli antichi greci. Per indicare una persona coraggiosa si dice che ha fegato, e infatti per i greci il fegato racchiudeva in sé tutte le passioni, dall'amore sensuale all'ira, dalla forza alla caparbietà. Solo chi aveva fegato possedeva forza fisica e coraggio per combattere imprese eroiche. Per Ippocrate il fegato era la sede della bile gialla, responsabile della collera e della forza, uno dei 4 umori insieme a sangue, flemma e bile nera. Per gli aruspici era l'organo per trarre gli auspici divini, ma per tutti era anche cibo prelibato e molto apprezzato. Il termine fegato viene dal latino iecur ficatum, espressione per indicare il fegato di animali ingrassati coi fichi, che poi si è abbreviata in solo ficatum, da cui fegato. Già Apicio, nel De Re Coquinaria, scriveva di ricette con il fegato, ma prevalentemente quello in uso all'epoca era il fegato di animali come vitello o manzo o grossa selvaggina. I fegatini erano generalmente destinati alla servitù o agli animali e la loro rivalutazione si deve principalmente alla cucina borghese dell'Ottocento. I fegatini, il ventriglio e lo stomaco del pollame, i rovinassi in veneto, cioè le rigaglie, termine che deriva da regalia, cioè cosa degna di un re, boccone da re, erano tradizionalmente molto usati nei pranzi delle nozze contadine. Se al fegato sono legate numerose ricette tipiche, tra cui gnoc col fiat, gnocchi di fegato, e fiat di vdl, cioè il fegato alla veneziana, l'influsso veneto ha portato da noi molti piatti con i fegatini, tra cui le tagliadelle coi figadini, il brodo, risi e fegatini e il risotto coi figadei. Piatti sempre più rari sulle nostre tavole, del tutto scomparsi nella ristorazione pubblica. I fegatini vanno comperati freschissimi e la loro pulizia con un coltello affilato è importante per rimuovere membrane e vene presenti sulla superficie. Si sciacquano poi sotto acqua corrente per eliminare residui di sangue. Per un gustoso risotto con i fegatini, tagliamoli a pezzetti e rosoliamoli con burro, cipolla tritata e 2 foglie di salvia. Sfumiamo con brandy, saliamo e portiamo a cottura. A parte tostiamo il riso, perfetto il vialone nano, sfumiamo con vino e continuiamo la cottura a risotto con brodo di carne ad assorbimento. A metà cottura aggiungiamo i fegatini e alla fine, fuori fiamma, mantechiamo bene con burro e abbondante grana grattugiato e pepe e facciamo riposare coperto per un paio di minuti. L'amarotico dei fegatini si sposerà perfettamente alla dolcezza del burro e alla cremosità del risotto. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato poco attivo con prezzi sostenuti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone e Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 21,50 e 21,70 euro al quintale IVA esclusa, il frumento tra 20,60 e 21,10 e la soia tra 47,60 e 48,10. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 3,30 euro il quintale e la soia è aumentata di 1 euro. Andamento stazionario nel comparto dei bovini da macello, dove le vacche fine carriera di prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,20 e 3,80 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,60 e 3,20. Prezzi in lieve ripresa invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi che vengono quotati tra 6,40 e 7 euro il chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,60 e 5,20, i frisoni tra 2 e 2,20, i bruni alpini tra 1,50 e 1,70. Operazioni stabili nel comparto dei suini, con i lattongioli di 30 kg quotati franco partenza dall'azienda a 4,88 euro il chilo IVA esclusa. Invece i grassi da macello si quotano in lieve calo a 1,90. La commissione camerale giovedì scorso ha stabilito il prezzo del prosciutto di San Daniele. Lo stagionato di 16 mesi viene quotato con osso fra 13,50 e 17,50 euro il chilo IVA esclusa, quello di sossato fra 18 e 21,50. Infine, nel comparto degli avicunicoli ritorna il quadro attivo e i poli a terra vengono quotati da 1,20 a 1,24 euro il chilo IVA esclusa, le anatre da 3,10 a 3,20, i tacchini maschi da 1,62 e 1,64, le faraone tra 3,17 e 3,25, i conigli oltre 2 kg e mezzo da 2,05 a 2,11, le uova oltre i 73 grammi provenienti da allevamenti a terra sono a 20 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Nelle prime due decadi di maggio il tempo in regione è stato decisamente variabile e le piogge sono state frequenti e spesso intense su vaste zone del territorio. Durante l'ultima perturbazione, quella di giovedì scorso, sulla pianura occidentale sono caduti dai 100 ai 150 mm di pioggia, ad est invece da 40 a 80, meno sulla costa. Le piogge poi sono cadute su terreni già intrisi d'acqua, caduta nelle settimane precedenti, per cui molti terreni si sono trasformati in acquitrini, come di solito succede nei mesi autunnali, ma raramente in primavera. Non bisogna dimenticare però che maggio è statisticamente il mese col maggior numero di giorni di pioggia, per cui l'andamento di queste settimane non dovrebbe stupire più di tanto, anche se è vero che quest'ultimo episodio è andato ben oltre le righe a causa dello scirocco sull'Adriatico che ha accentuato notevolmente gli effetti del fronte atlantico, come di solito succede appunto in autunno. Ricordiamo che il mare continua da mesi ad essere più caldo del dovuto, per cui gli effetti poi si amplificano. Le cose non cambieranno nei prossimi giorni, dato che altre depressioni atlantiche, entrando nel Mediterraneo, formeranno perturbazioni e determineranno instabilità. Per questo dovremo attenderci per tutta la settimana tempo incerto e instabile, con delle piogge e dei temporali, alternati a qualche fase di tempo migliore. Probabilmente la giornata di martedì sarà quella con le piogge più diffuse e consistenti. Le temperature non andranno oltre i 25 gradi su in pianura per quanto riguarda le massime e le minime saranno sopra i 10 gradi. Sulla costa, come al solito, l'escursione termica sarà più ridotta. Non sono attese quindi ondate di caldo che spesso negli ultimi decenni avevano caratterizzato qualche settimana del mese e da questo punto di vista le cose sono più normali. Certamente le operazioni in campagna saranno ancora ostacolate dalle piogge e dall'incertezza del tempo, specie per quanto riguarda la viticoltura. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Stelis fissis ploe vicine, ovvero stelle fisse vicine vicine, la pioggia è prossima. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.